Allora, la testa del corteo è arrivata calmamente, pacificamente, scortata, si fa per dire preceduta, da tre camionette della polizia che aprivano il corteo, perché finalmente si è ottenuto quello che si voleva dall'inizio. Quindi il corteo è arrivato all'angolo tra via Monticelli e Corso Sardegna, si sta cercando il proprio posto, sta occupando tutti gli angoli della piazza. Dietro è veramente un'assoluta e uniforme marea di manifestanti, tra l'altro molto molto fitta, perché il fatto che il corteo sia dovuto andare così lento, proprio perché bisognava negoziare ogni metro, ha fatto sì che si sia molto molto compattato, per cui è una vera marea sterminata e molto molto densa. Siamo su Corso Italia, eravamo vicini all'angolo dove poi il corteo doveva girare per deviare dagli scontri, sono cominciati, non sappiamo se a causa delle provocazioni, un fitto lancio di lacrimogeni anche ad altezza Duomo su questa parte dei manifestanti. I lacrimogeni vengono tirati in questo istante dalle terrazze di questi stabili che si trovano proprio all'angolo di questa strada che dovevamo percorrere per poi raggiungere il resto del corteo, quindi questa parte del corteo sembra assolutamente, definitivamente compromessa. Il corteo è spezzato. Dove mi trovo io sta ritornando indietro. Dove ti trovi precisamente? Io mi trovo sul lungomare, poco prima di Punta Lagnos, ci stavamo avviando verso Piazzale Kennedy. Adesso quello che è successo, da quello che mi sembra di aver capito, è che dalla cima di corteo, dopo una mezz'ora passata tutti fermi, schiacciati, sotto il sole, sono partiti dei fumogeni dalla testa del corteo contro le persone, contro il corteo. Vedevo delle bandiere dei Verdi di Rifondazione, vedevo il network per i diritti globali, Copas, un po' di tutto insomma. Con grandissimo coraggio e anche con grandissimo senso di responsabilità, molte persone si sono messe nella via dove aspettavano i poliziotti, aspettavano solo di caricare, evidentemente le persone che di corsa, correndo, sarebbero scappate di fronte ai lacrimogeni, si sono messi a fare cordone con le braccia alzate di fronte alla polizia, proteggendo di fatto la polizia da eventuali attacchi. La gente sta scappando, non respirano, lacrimano gli occhi, gente che vomita, ma tutti calmi, tutti con le mani alzate, decidono di ritornare indietro sulla loro strada, nonostante i fumogeni che continuano a venire sparati. Un'altra cosa. Quindi questo loro gesto non sta fermando minimamente, non sta influenzando la decisione della polizia di continuare a sparare lacrimogeni? Comunque, questi vanno indietro a braccia alzate e la polizia continua. Anzi, io aggiungo una cosa. Dalla via che vi dicevo, che è una via laterale, quindi una traversa che sbuca su questo viale, la polizia ha lasciato alcuni lacrimogeni dall'altra parte della strada, in modo che la gente potesse scappare da quella parte lì. In ogni caso la polizia non è riuscita a trovare un pretesto che ha cercato in tutti i modi e per tutto il corso di questo corteo, cioè il pretesto di poter caricare un corteo per la gran parte inerme, un corteo difficile, un corteo assolutamente composito, un corteo sul lungomare. Un rischio evidentemente non solo messo in conto, ma un rischio assolutamente cercato. Io adesso non lo so se in quella via, se avanti ci saranno degli scontri, ci saranno delle case, perché anch'io sono passato indietro. Però ho visto migliaia e migliaia di persone arretrare, braccia alzate e muoversi in mezzo per evitare qualunque cosa. Qualunque cosa finora non è successa e questo è soltanto grazie alla responsabilità di queste persone.